Letture di Radio 24. Esiste una via di fuga dalla rete? È la domanda che si pone Ermanno Cavazzoni in un articolo pubblicato oggi sul domenicale del Sole 24 Ore, nel quale immagina cosa accadrebbe se nell'era digitale qualcuno decidesse di abbandonare tutto e fare l'eremita. L'elettronica ha dei vantaggi indubbi, non ne discuto, ma è sempre più difficile la possibilità di ritirarsi dal mondo, fare l'eremita. Ognuno nasce cittadino e ha un numero. Non ce l'ha ancora sotto pelle in un microchip come ce l'hanno i cani, ma presto mi dicono che ce l'avremo anche noi, dalla nascita, e significherà l'appartenenza di ciascuno, volente o nolente, allo Stato. Sarà come avere la targa o un antifurto satellitare. Non ci saranno forse evasori o delinquenti impuniti, ma uno ad un certo punto della vita dovrebbe avere il diritto di andarsene. Questo distingue l'uomo dalla formica. Io dico che è sacrosanto il diritto di stancarsi del consorzio umano e allontanarsene. Se togliete questo diritto, succedono poi gli eccidi inspiegabili di chi fa saltare col gas l'appartamento e il condominio, coi condomini dentro, perché della vita associata a costui, ad esempio, non ne poteva più. Un tempo, senza dar spiegazioni, prima di compiere queste inutili stragi, un individuo esasperato da tutto partiva, dall'oggi al domani. Dove vai? Non lo so. E andava in qualche dirupo dove si cibava di erba. Oggi tutto questo è difficile, nell'era elettronica, o comunque a costi altissimi. Se uno dall'oggi al domani parte per fare l'eremita, prima di tutto accumula bollette non pagate dell'Enel, del gas, dell'acqua, la tassa per i rifiuti, il telefono fisso, il passo carraio, il bollo auto, l'assicurazione, poi l'auto se è in strada gliela portano via per il lavaggio notturno e costa un tanto al giorno per il deposito. E intanto scade il bollino blu, la multa per la rimozione raddoppia e si applicano more, affitti arretrati dell'appartamento, il condominio, le tasse, non compilando il 740 si entra nella categoria di evasori totali. Oggi c'è la proposta di additarli al disprezzo. Finirebbe tra i cittadini ricercati da Publitalia e dal Tribunale. La virtù della comprensione oggi è svanita. L'esattore di un tempo si informava del perché, magari capiva, condivideva la scelta. Andato a far l'eremita. Va bene, lo invidio. Gli è abbonata la mora, gli è cancellata la bolletta Enel, niente ritorsioni, azzeriamo. E magari, suggestionato, partiva anche lui, l'esattore. Si veniva a sapere che era andato nel deserto della Tebaide, le cartelle esattoriali disperse al vento. Ci pensavano due volte prima di mandare un secondo esattore. Con la rete informatica tutto invece si è fatto anonimo e automatizzato, quindi spietato. Ogni giorno di eremitaggio avrebbe un costo, che cresce progressivamente secondo un parametro. L'eremita verrebbe braccato e, peggio ancora, la sua scomparsa finirebbe in televisione. In quei programmi, chi è che l'ha visto? Si frugherebbe nella sua vita senza averne diritto. Torna a casa, papà, ti vogliamo bene. Lacrime. L'eremita fa la figura del cinico, del senza cuore, maledetto da Dio. Consigliamo perciò un eremitaggio programmato. Se uno ha famiglia, la faccenda è dura. Se è separato, è altrettanto dura. E gli alimenti? Dice la moglie. Non avrò reddito, risponde l'eremita. Com'è possibile? Dice il magistrato. Quindi un eremita, consiglio sia scapolo. Devi incominciare col disdire luce, gas, acqua, demolire l'auto e la targa, disdire l'appartamento se è in affitto. Se è proprietario, cosa fa? Lo lascia un erede. Se odia gli eredi, lo vende. Siamo in una difficile congiuntura per la vendita immobili. Il mercato è fermo. Lo svende. Ma ci vogliono mesi, se è fortunato, un anno o di più. Più notaio, compromesso, rogito, eccetera. Dei soldi? Cosa se ne fa? Consiglio di comprare oro e seppellirlo. Dove? Consiglio un angolo appartato del cimitero. Consiglio di andare di notte, scavare e poi ricoprire, cancellando la terra smossa con del ghiaino. Un giorno ci sarà un fortunato che scava magari per seppellirsi, perché ad esempio è rovinato dalle utenze, disperato, sul punto di farla finita. E non volendo dar noia agli altri, va al cimitero e si scava un buco in un angolo. Invece trova l'oro. Chissà che non ci ripensi. Ma tornando al nostro eremita, bisogna che vada all'ufficio imposte, Non avrò più reddito, né residenza, né niente. È possibile che si insospettiscano. Chi la mantiene? Nessuno. Cosa scriviamo? Vagabondo? No, eremita. Non è nella tabella e poi ci vorrà un patentino. In che comune intende esercitare? Dove mi porta il caso? Per noi non è sufficiente. Manderemo degli accertamenti. Vorrei restituire il codice fiscale. Non è possibile. Il codice si estingue con la morte. Mi dichiaro morto. Non faccia lo spiritoso. Lei vuole evadere. I soldi della casa li ha messi all'estero. Ci dica dove. Come si vede, questo è uno scoglio sempre difficile. Ma supponiamo che riesca a scappare da tutto. Supponiamo, perché è molto difficile. A questo punto, dove va a fare l'eremita? Dove si sistema? Può andare su terreni demaniali, come i greti dei fiumi, montagne, spiagge. Alle spiagge però è meglio rinunci, perché sono il maggior luogo di turismo estivo e la solitudine sarebbe difficile. Ma anche fiume o montagna, arriverebbe una guardia a denunciarlo per campeggio abusivo. Notate che se si fa un orticello verrebbe multato. Se raccoglie funghi a raccolta regolamentata sarebbe multato. Se raccoglie legna verrebbe multato, non parliamo poi se accende un focherello. Una capanna? Abuso edilizio. Ha le fognature, le altezze, l'indice di risparmio energetico, il garage e i rifiuti. L'eremita fa la raccolta differenziata? Distingue il secco dall'umido e la plastica, le pile, i medicinali scaduti. Un eremita non vorrebbe appartenere a nessuno stato. A quanto mi risulta, tutte le terre sono state divise, anche l'Antartide. E c'è il progetto di dividere in lotti la Luna. Unica possibilità, il mare aperto. Acque internazionali. Per far l'eremita al giorno d'oggi bisogna avere una barchetta e non toccare mai terra. Recuperare i legni alla deriva per fare occasionali riparazioni. Mangiare pesce, che fa bene. Alghe, che fanno bene e fanno dimagrire. Si rischia lo scorbuto, si rischia di essere scambiati per barchini pirati su cui c'è libertà di fare fuoco. Ci sono le tempeste. In pieno oceano sono furiose. Ma finora il vento non è sotto brevetto, né è considerato bene demaniale. E tuttavia, abbandonandosi al vento, si finisce prima o poi su un continente, e dunque in uno stato territoriale. Un eremita sarà classificato immigrato clandestino. Finirà in un campo profughi, dove si sta ammassati. Il contrario dell'eremitaggio. Si riceve un numero e siamo da capo. Da dove vieni? Non lo so. Sei recidivo? Non lo so. Dichiara l'imbarcazione. Mia. Oh, bene. Da chi prendi ordini? Denuncia per tratta di immigrati, senza bandiera, senza patente nautica, eccetera. Quindi, consiglio. Vivere in acque internazionali, anche se è difficile. Si campa poco, ma quando l'oceano è tranquillo. Si è mangiato un pesce, si è bevuto acqua piovana, si è trovato un po' di insalata alla deriva e viene la notte. Allora ci si distende in fondo alla barca e si guarda l'immenso cielo, che finora non è vietato guardare. Né ci vuole un biglietto d'ingresso, un abbonamento, un canone, una licenza o la partita IVA. Ma questo è ciò che ci distingue dalle formiche, che sono sempre connesse in una loro rete a molecole chimiche. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «C'è una via di fuga dalla rete?» dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Al grido di «Liberate l'ovetto Kinder», gli americani si stanno mobilitando con petizioni e iniziative in rete per cancellare una vecchia legge che risale al 1938 e vieta di nascondere oggetti non commestibili all'interno di prodotti destinati all'alimentazione. Chi, per ingannare l'attesa all'aeroporto o distrarre il pupo durante il volo, decide di mettergli nello zainetto un ovetto con sorpresa, viola dunque la legge e rischia una multa fino a $300. A una signora canadese che varcava il confine in auto portandosi dietro una confezione di ovetti, è stato addirittura contestato il reato di contrabbando. Doganieri e addetti agli uffici di controllo della frontiera si danno un gran da fare per applicare la legge. Solo nel 2011 hanno sequestrato dai bagagli dei viaggiatori oltre 60.000 uova di cioccolato e provveduto, come da regolamento, alla loro distruzione. Ma ora, per gli americani golosi del dolce con sorpresa, è il momento della ribellione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Negli Stati Uniti l'ovetto è di contrabbando» dal magazine 7 del 26 aprile.